quei giorni dove manca l'aria, quando non respiri e ti senti soffocare, in casa tante mosche, piatti da lavare. E questa è la storia che voglio raccontare. Questo è un blues un po' particolare, parla di una mosca molto originale che mi son trovato un giorno dentro casa e che si è innamorata, guarda un po' di me. Ogni mattina quando entro in bagno chiudo la porta piano piano e poi rilassato faccio la pipì. Ma non è possibile, lei è già lì. Dal bagno già un poco alterato e non mi sono nemmeno lavato, mi vesto in fretta e salgo in ascensore. Oh mamma mia, sento già il suo odore. Non prendo l'auto stamattina, se vado in bici forse arrivo prima. Pedalo canticchiando in buona lena. Cos'è questo ronzio dietro la mia schiena? Seccato, ma molto deciso e determinato. Le dico, siamo diversi, come puoi notare. Perciò ti prego, lasciami stare. Un breve silenzio di qualche minuto e poi si è posata ancora sul mio letto. Prendo il cuscino e un urlo disperato. Vattene dal letto, nero insetto maledetto.